Vinotti. Ti va cantando camule, va mia. Tu mi mandasti a dire che sì, ti voglio. Voglio la mala pasca omu ti piglia. Corvo nero che la notte va cantando. Calanzi non ci sta ci la cuceria. Chira vigliola chi tu va cercando. Saluti certo calambo la tia. Senza mia vatama.